Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando Mariddì ai microfoni anche questa sera. Vi do il benvenuto, spero che stiate trascorrendo una piacevole serata in compagnia dei programmi di Radio Alma e per circa 57 minuti anche di brussellando. Abbiamo aperto l'anno in una maniera sicuramente triste, giacché alla settimana scorsa abbiamo aperto con la scomparsa di Pino Daniele, un autore a noi molto caro. Qualche giorno più tardi, beh, lo sapete tutti, c'è stato questo attacco al cuore di quella che è la libertà di stampa. Gli episodi di Parigi di qualche giorno fa sicuramente lasceranno cicatrici molto profonde su quella che è la capacità delle nostre democrazie di rapportarsi a certi eventi. Come sapete, Brussellando non si è mai dedicata in primo piano e in primo luogo di temi politici, ha sempre parlato di arte, di letteratura. Ovviamente voi mi direte che l'uno e l'altro in un certo modo riflettono anche quella che è la nostra realtà. Sicuramente la nostra libertà di espressione tanto è bella perché può trasmettere a volte delle emozioni, può trasmettere a volte dei messaggi, a volte riesce a fare sia l'uno sia l'altro. E viviamo in questo paese, questo Belgio che ci ha accolto, e questa Bruxelles, questa città nella quale viviamo da tanto tempo, che pure si basa su un principio molto bello, di cui abbiamo già parlato più volte, che è quello dell'autoderisione. Un popolo che non sa più ridere di se stesso, che non sa più ridere dei propri difetti, che non sa più ridere magari anche delle proprie debolezze, è sicuramente un popolo che non ha più futuro, non ha più speranza, perché è proprio dalla capacità di inventarsi che un popolo evolve e quindi sicuramente migliora. Non mi esprimerò in merito e non me ne vogliate se non l'ho fatto nemmeno. A parte un messaggio pubblicato sul nostro blog, non ho voluto esprimere un'opinione diretta perché credo che un evento come quello di Parigi necessiti del tempo. Necessiti del tempo per essere anche assimilato, compreso, capito. Ovviamente dalla nostra redazione vanno le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutti coloro i quali credono, come noi, nella libertà di stampa, nella libertà di espressione, anche quando tocca argomenti magari poco semplici, perché forse è proprio quella l'arte della satira, saper raccontare laddove altri falliscono. Probabilmente questo messaggio non è passato e chiunque abbia agito ha visto in quelle parole blasfemità probabilmente mai pensate da chi le ha descritte. Ovviamente né l'uno né l'altro potranno ormai parlarsi, ma quello che noi ci auguriamo è che un episodio del genere non accada mai più. Poi in internet, in rete, come qualcuno direbbe, sono passate tante cose, sono state dette tante opinioni e sicuramente ciascuno ha detto la propria. Quello che però è vero ed è l'unico dato certo è che 17 persone hanno perso la vita e non sono più con noi. E quindi chiederei veramente a tutti un attimo di riflessione prima di concludere in un modo o in un altro, in maniera affrettata, commenti che a volte lasciano il tempo che trovano. E mi scuso se, nonostante il mio spirito critico, questa sera io non riesca a dirvi altro. Quindi un suggerimento musicale da parte della nostra regia, da parte di Danielle, e poi ritorniamo in studio e riproponiamo un'intervista che è passata inosservata. Quindi, poiché questa sera parliamo anche di tempo che passa e di disillusioni, perché sono anche quelle le sensazioni che abbiamo provato in questi giorni, che vi riproponiamo l'intervista che Luca Benetti ha concesso a Brussellando qualche giorno fa, è una raccolta di ballate dal titolo Ballate per cuori autistici. La puntata doveva andare in onda il 30 dicembre, ma poi per un motivo tecnico, insomma, ahimè, come sapete, la tecnologia anche nel 2015 ha le sue falle. Quindi, dopo il suggerimento musicale di Damienne, vi riproponiamo quello che è stato il contributo di Luca Benitti a Brussellando. Vi auguro una buona settimana a tutti e vi lascio poi per la seconda parte della trasmissione con i nostri Georges Laurent e Fiordaliso. Saluto veramente tutti e prometto, risponderò a tutti quelli che ci hanno scritto in questi giorni e continuate a farlo perché, come dice anche il nostro slogan, con Brussellando la vita si colora, o almeno noi ci crediamo davvero. Maridì, Radio Alma, Brussellando. Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, bentrovati, bentrovate dopo questo suggerimento musicale di Daniemme. E quindi, come dicevamo proprio in apertura di trasmissione, ritorna la poesia, che sapete non è proprio la protagonista di Brussellando, ma di tanto in tanto, insomma, poiché restiamo nel campo letterario, la poesia è una, insomma, è un'arte davvero che va apprezzata e perché la parola, come sapete, deve essere protagonista e con la poesia lo è ancora di più. Quindi sono molto contenta perché accogliamo per la prima volta qui a Brussellando, a Radio Alma, Luca Benetti. Luca, benvenuto a Brussellando. Ciao, buonasera e grazie dell'ospitalità. Siamo noi che ti ringraziamo. Allora, ritorna la poesia protagonista a Brussellando dopo qualche settimana di latitanza, se vuoi. Ci siamo molto dedicati alla musica in quest'ultimo periodo, sono stati tanti gli ospiti musicali. Allora, volevo iniziare con questa domanda che mi piace sempre fare perché mi permette poi nel tempo di raccogliere una sorta di filo rosso, se voi, tra voi che amate la parola, ora musicata, ora soltanto invece decantata. Come nasce la tua passione per la scrittura e per la poesia in particolare? Allora, la mia passione per la scrittura nasce, insomma, come a tanti, è nata nell'adolescenza e poi, insomma, l'ho coltivata andando avanti e adesso ho pubblicato questo mio secondo libro di poesia. Sì, insomma, nasce principalmente con la musica. Io mi sono avvicinato alla poesia all'inizio tramite i cantautori, quelli classici italiani, Puccini, De André, eccetera, e poi attraverso anche la musica un po' più di nicchia, un po' più rock, italiana, e così insomma. Quindi hai fatto un po' il cammino che hanno fatto altri protagonisti di Brussellando che ci hanno raccontato qualche settimana fa. Però qual è stato il passaggio tra la musica, quindi la parola cantata che ha bisogno anche delle note musicali, e la poesia che invece, volendo, ognuno di noi poi trova la sua colonna sonora per accompagnare quelle parole? Sì, appunto penso che insomma, l'anello di congiunzione tra la musica e la poesia sono stati i cantautori tramite i quali poi io mi sono avvicinato ad alcuni poeti, ad esempio adesso mi viene in mente il collegamento tra Bestioni, Alda Merini, oppure non so, Berlinghetti, che anche lui è presente in alcune insomma, opere di rock italiana, anche internazionale. E appunto partendo da musica ho approfondito questi autori e da lì è nata, insomma, mi sono reso conto che mi capivo con queste persone che leggevo, insomma. Quindi qual è il genere che ti appassiona di più? Qual è il genere che prediligi? Io preferisco sì, i cantautori oppure il rock d'autore, insomma, quando poi mi approccio ad un artista o ascolto una canzone, la cosa fondamentale è che il testo abbia qualcosa da dire. E raccontami un po' com'è fare poesia in Italia, quanto è facile o quanto è difficile rivolgersi a un pubblico con la poesia. Ma cioè, il rischio è quello poi di non riuscire mai ad evadere da quello che è il cerchio delle conoscenze o di un pubblico appassionato ma molto ristretto, insomma. poi in Italia si legge anche poca letteratura, pochi romanzi, figuriamoci la poesia, insomma. Però insomma, mi sembra di capire che tu sei un tenace temerario, perché al di là di tutto prosegui con la poesia, giusto? Sì, infatti. Anche parlando con una persona l'altro giorno mi ha detto, io gli ho detto che il mio primo libro aveva venduto un numero di copie non proprio da best seller, che poi comunque per un esordiente di poesia non è male, e questa persona mi ha detto: ma perché continui ad andare avanti? E io gli ho detto: ma effettivamente me lo chiedevo anch'io l'altro giorno. La risposta ancora non l'ho trovata, però insomma. Eh beh, sono passioni, no, sai. Un editore che ha deciso di, insomma, di pubblicarlo, quindi io sono più che contento di. Lo posso immaginare. Tra l'altro, volevo aggiungere, sono passioni, le passioni sono un po' come un dogma, quindi le coltiviamo, le amiamo, e a volte senza nemmeno un perché. Ma veniamo quindi a questo tuo nuovo libro di poesie, edito da Ex Cogita, che salutiamo, dal titolo Ballate per cuori autistici. E in realtà, per l'appunto, leggendo queste tue ballate, mi rendevo conto che non sono proprio poesie, sono alcune di esse veramente dei canti, un po' come mi ha ricordato un po', sai, la letteratura francese, quella medievale. Ti ho immaginato un po' come veramente un menestrello che si rivolge a questo pubblico per raccontare cose che accadono oggi nella nostra società. Quindi partirei col titolo: perché ballate e soprattutto perché dedicate a cuori autistici? Allora, ballate perché mi sono reso conto man mano che la raccolta prendeva forma, che i singoli componimenti prendevano forma, che avevano un che di ballata, avevano un certo senso del ritmo all'interno delle composizioni, no? Mm-hmm. E per cuori autistici perché sono tutti, penso che abbiano tutti questi componimenti a che fare un po' con dei mondi un po' distaccati da quello reale, no? Un po' magari immaginari, un po' auto-esclusi, che vivono un po' in un disagio più o meno marcato a volte, però che hanno tutti a che fare con un certo senso di esclusione, no? Non so se tu hai avuto la stessa impressione o... Allora, la mia impressione è stata quella comunque di, chiaramente, di un messaggio, anzi più di un messaggio, che tu rivolgi per l'appunto a questi mondi, a queste realtà che tu hai voluto fotografare. Ecco perché la prima immagine che mi è venuta proprio, è apparsa mentre leggevo, era proprio quella di un menestrello, no? Come accadeva un po' in passato. Quindi mi è venuto un attimo anche un po' un flashback e pensavo: ma qual è il momento creativo per Luca? Qual è quell'elemento che poi lo fa scrivere, lo fa sedere, lo fa scrivere su un taccuino, insomma, poi ognuno ha le proprie modalità di scrittura. Ma qual è per te il tuo Deus Ex Machina? Ma diciamo che non è che c'è proprio un momento in cui, cioè, parte magari a volte da una frase che mi viene in mente nei posti più svariati, quale può essere, non so, la cosa del supermercato, o mentre sto andando dal dottore, mi viene in mente una frase per una cosa che vedo, e da lì poi magari parte. Sì, sono frasi che nascono sul momento, no? Da una cosa che mi fa riflettere o arrabbiare o stupisce, e poi nasce tutto quello che è il racconto, la poesia, come vogliamo chiamarlo. Allora voglio leggere due righe, eh? Una tua ballata dal titolo Sarà. Se arrivi al punto di avere nel frigorifero due mezzi barattoli di pesto alla genovese e un wurstel ai peperoni, deve esserci qualcosa che non funziona nella tua vita. Sarà che spesso e volentieri ti perdi, e le briciole che lasci dietro non c'è nessuno che le segue. Sarà che qualcuno lascia posti liberi e non è mai la persona che vorresti che si siede. Sarà che l'oceano che ti porti dentro sembra sempre promettere burrasca. Sarà la stanchezza dei sogni che hai dentro le tasche, saranno i troppi perché, saranno i forse nascosti dietro un futuro che non fa per te. Sarà che probabilmente è tutta un'illusione, sarà questo schifo di nazione, Sarà il disordine che non fa trovare gli accendini, infatti è sempre vero. Sarà che quando parti a volte ignori che la strada è in salita e ci sono parecchi gradini. Sarà che guardarsi dentro a volte è un brutto sbaglio. Sarà il giro tondo che talvolta mette sbadiglio. Saranno i ricordi a cui più non rassomigli. Saranno sciocchezze che non fanno dormire. Sarà quella porta che non ti riesce di aprire. Sarà che parli sempre una lingua diversa dal mondo. Saranno gli sguardi nel vuoto che trascinano a fondo. Sarà il fumo negli occhi. Sarà il male di lei. Sarà che non ti va di cercare risposte che soffiano in un vento che non c'è. Cari amiche, cari amici, questo è Luca con questa sua ballata. Sarà che mi è particolarmente piaciuta. Dai, un commento su Sarà. Un commento per dire solo che il finale è rubato, come spesso accade in questo libro, da alcune canzoni di Giorgio Canali. L'ho preciso all'inizio. E questa era una delle mie domande, era la domanda che ti avrei fatto. Quindi, quanto conta per te, siccome poi lo citi anche nell'introduzione, il Canali? Per me penso che conta parecchio, insomma, io l'ho ascolto appunto da quando sono adolescente ed è stato uno di quelli che ho sempre ascoltato, sia da solista che nei vari progetti a cui ho partecipato, e penso che abbia avuto un'influenza piuttosto marcata in quello che scrivo, in quello che faccio, anche se magari non viene fuori proprio, uno non riconosce proprio il suo stile in quello che faccio, però penso che abbia avuto abbastanza un'influenza. Qualcosa che abbia il valore di essere vissuto, e ancora cito le parole di Luca. Rivoglio indietro il tempo che non ho sentito passare, i sorrisi sprecati, quelli perduti dietro tristezze di poco conto, quelli usati per cortesia in situazioni in cui sarebbe stato più onesto il pianto. Rivoglio i ricordi, la leggerezza perduta, la spensieratezza che fa danzare a pieni nudi in mezzo alle piazze. Rivoglio lo stordimento euforico del primo vino, l'ignoranza che lascia con i capelli al vento a fumare divertiti. Rivoglio il suono dei tamburelli nel tramonto, li voglio sentire leggeri per cuotermi un polso. Rivoglio vederti tornare in bicicletta con le mani piene di sogni, le matite tra i capelli e in tasca qualcosa che abbia ancora il valore di essere vissuto. Ci sono tanti ricordi in queste tue ballate, tante emozioni rubate tra un momento e un altro, Luca. Sì. E queste sono emozioni poi in libertà, giusto, che si trasformano in parole. Sì, sono nate più che altro anche da pensieri, no? Alcune di queste ballate, da pensieri che magari una volta fa sul suo passato, sul suo vissuto, e poi li trascrive per un motivo appunto che ancora dobbiamo capire. Allora, come sai, ahimè, il tempo in radio è tiranno, però volevo ancora leggere una terza poesia, che è Rispondi quasi niente. L'uggiosità dipinta sulle finestre, l'odore del caffè, l'inverno che sembra non voler morire, chili di nuvole in cielo a nascondere l'orizzonte. Che cosa manca nella tua vita? Ti chiede qualcuno distrattamente con un sorriso curioso e comprensivo. Rispondi quasi niente, cercando di incrociare il tuo sguardo nel riflesso della finestra e scoppiare in una risata velenosa. In un tempo perduto, in una città lontana, un poeta scriveva, stanco di pasti fugaci, stretti sotto il braccio dentro carta di giornale e consumati frettolosamente. Che cosa manca nella tua vita? Fuori dalla finestra comignoli a branchi, incuranti di cancri e pressioni arteriose, continuano a fumare menefreghisti. Rispondi quasi niente e li senti sempre più fratelli quei camini amaranto immobili nella città annoiata. Ci saranno canzoni, mi hai detto sorridendo, nuove terre per i nostri pensieri erranti. Ci saranno ancora barche ad attenderci, come quando volavano gli aquiloni e non li sapevamo ascoltare. Luca, devi sapere che qualche tempo fa abbiamo dedicato una bellissima puntata al vento. E questo elemento l'ho ritrovata in molte di queste tue ballate. Mi sbaglio o è soltanto un'impressione? Hai ritrovato il vento come immagine in molte delle ballate? Sì, il vento che, come immagine, come sensazione, come ricordo, come anelito. Sì, come spesso accade, poi ci sono delle immagini o delle sensazioni che ricorrono, insomma, nelle poesie. Penso che nelle mie accade, no? L'hai notato anche tu, quindi sì. Eh beh, sì, È c'è. venuto in maniera molto naturale, così non so come mai. Ma il vento come caudicità, nel senso che come espressione, immagine di questa vita ca caduca, oppure invece è un po' un caso, no? Magari è quell'anelito a cui tendiamo. Ma sì, è venuto fuori per caso, ma poi non penso che sia niente per caso quando una cosa diventa ricorrente, no? Assolutamente, certo. Penso, sì, se una cosa che è venuta ricorrente, poi io riconosco che come, insomma, ci sono delle cose che si ripresentano e che hanno un valore per sé poi. Quindi sì, e io al concetto di vento io sono abbastanza, insomma, legato e mi piace molto riprenderlo poi. Luca, stai già scrivendo a qualcos'altro oppure stai promuovendo questa tua raccolta di ballate? Adesso sto cercando di promuovere questa raccolta, adesso si vedrà con l'editore, insomma, di organizzare qualche evento e poi in realtà io ho già un'altra raccolta pronta e ne sto finendo un'altra che, insomma, se posso anticipare così, Certo. sono molto legato. E sono delle poesie che ho scritto in vari viaggi che ho fatto e adesso manca ancora, insomma, qualche composizione per far sì in modo che si divenga una raccolta abbastanza sostanziosa per creare un libro, diciamo. Beh, dai, coraggio, tanto i primi due sono arrivati, quindi come dice il proverbio, non c'è due senza tre. Anche 203, ma speriamo, insomma, Vedrai, chissà. il proverbio vaglia nel settore editoriale, la vedo un po', però insomma, se qualcuno me le chiederà io ne ho. Beh, brustolando in genere, sai, porta sempre tanta buona fortuna. Recentemente pure ho ricevuto un'altra email di una artista che pure è passata in radio, che ha vinto il premio, ora non ricordo esattamente per che cosa, anche dopo il passaggio in radio a Brustolando. Quindi, insomma, Se auguriamo. non ha qualcosa ve la dedicherò, insomma. Auguriamo anche a te questa fortuna, che poi, come dico sempre io, è una fortuna meritata, perché la fortuna aiuta soltanto gli audaci. Luca, siamo ormai in periodo natalizio, quindi volevo leggere, se tu hai ancora 2 minuti, un'altra delle tue ballate, il cui titolo è abbastanza, insomma, breve bollettino di guerra, però, insomma, leggendolo mi ha colpito particolarmente, è breve, quindi avrei notato che ho selezionato quelli più brevi da poter leggere poi in radio. Quindi ve lo leggo, ancora 40 secondi della vostra attenzione. Qualcuno ha dimenticato addobbi natalizi al pesamuro e impolverati, ma resistono alla forza di gravità che li vorrebbe veder caduti. Mi scrivi per comunicarmi che la forza di gravità del tuo pensiero non ti lascia più volare. E mentre constatiamo l'inefficienza del servizio nettezza urbana del nostro cuore, negli scorci di lucidità ci rendiamo conto che nulla è rimasto uguale nell'attorno che ci circonda. Luca, siamo a fine anno, quindi c'è un desiderio, c'è un messaggio, una dedica, un augurio, un auspicio che vorresti indirizzare dai microfoni di Radio Alma e Brustolando? Ma tanta felicità a tutti, non so cosa dire in questo periodo storico, non si sa bene cosa dire, speriamo che vada Già. tutto bene, perché qua stiamo male, qua in Italia, non so lì, che notizie avete dell'Italia, ma non è che siamo messi molto bene. Dall'Italia ci vengono soprattutto le vostre ballate, le vostre canzoni, la vostra letteratura, la vostra musica, che poi è anche la nostra. Quindi più o meno sappiamo anche come vanno le cose in Italia. Luca, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi. E veramente ti auguriamo tutto il meglio e quando questa tua terza raccolta sarà pubblicata, Ricordati ancora di noi, di Radio Alma e di Brussellando. Volentieri, grazie a voi ancora dello spazio e buona serata a tutti. Grazie Luca, a presto. Ciao, grazie. Buonasera cari amici, siete con Dani M in regia, Radio Alma Brussellando, martedì 13 di gennaio, e questa sera sono fisicamente da solo in studio, il che da un lato mi dispiace perché insomma è sempre meglio essere in gruppo, il divertimento della diretta eccetera, ma da un altro lato non mi dispiace perché ho la possibilità di essere da solo con voi e con i nostri ascoltatori. Dopo questa prima parte, con questa intervista che abbiamo riproposto di Benetti, adesso, prima di un'altra intervista che invece ha preparato Georges Alain addirittura da Amsterdam, e sentirete perché, tengo a precisare che Georges Alain non era sotto l'effetto di sostanze strane. Sentirete il motivo per cui insomma è andato a contattare questo artista di Amsterdam. Prima appunto di questa intervista volevo ricordarvi alcuni eventi che avranno luogo nei prossimi nelle prossime settimane o nei prossimi mesi a Bruxelles. Il periodo invernale, contrariamente a quello che pensano molti, è un periodo dove abbiamo molti eventi. Il pallino di Dani M, come avrete potuto già immaginare, anche perché insomma Dani M lo conoscete già, è quello della Prima Guerra Mondiale. In effetti sono un po' barboso nel ricordarvi tutti questi eventi sulla Prima Guerra Mondiale, ma ritengo che sia un evento ancora, cioè un evento importante, i 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, e che merita di essere ricordato. Per cui vi consiglio due eventi. Il primo si chiama 14-18 Bruxelles all'ora tedesca, che non è altro che un percorso, una mostra al Museo della Città, la Casa del Re alla Grand Place, quindi in pieno centro di Bruxelles, che ripercorre quale era la vita quotidiana della popolazione civile belga ai tempi dell'occupazione tedesca. Come sapete, nei primi mesi della Prima Guerra Mondiale la Germania, la Prussia dell'epoca, invade il Belgio e occupa la capitale, occupa praticamente il 95% del territorio belga. E in questo momento le città tedesche si sono organizzate per sostenere lo sforzo della guerra, e il Belgio si prova a difendere ma non ci riesce. Ma che cosa succede? Che cosa significa far parte diciamo, essere occupati dai tedeschi, dover lavorare per i prussiani, eccetera, eccetera. È un percorso ideato principalmente per le famiglie, bambini e gruppi scolastici, ed è secondo me molto molto interessante. L'entrata è gratuita per i minori di 6 anni e in aggiunta ai minori di 18 anni nel weekend. La tariffa è modica di 5 euro il sabato e la domenica dalle 10 alle 17 fino al 3 maggio. C'è anche un numero di telefono a cui si possono chiedere maggiori informazioni, che è lo 02 279 64 50. Il secondo evento, sempre sulla Prima Guerra Mondiale, è sempre un'esposizione, e non è altro che la riscoperta dell'esposizione 14-18 Se notre histoire, è la nostra storia, che è stata lanciata l'anno scorso. Questo obiettivo l'obiettivo di questa riscoperta è di permettere soprattutto ai ragazzi, ai bambini, di rivenire su quella che è stata forse una delle migliori esposizioni degli ultimi tempi qui a Bruxelles e di sicuro al Museo Militare, tramite un gioco che non è altro che Snoop, un cane detective che spinge i bambini a scoprire, a fare un percorso di scoperta e riprendere tutta una serie di, insomma, di cose che erano importanti da capire in questa mostra. Il percorso dura, diciamo, un paio d'ore. L'entrata comporta anche l'acquisto di un pacchetto gioco percorso e, insomma, secondo me è un evento molto molto educativo, perché soprattutto è ludico. Il numero da contattare è lo 02 737 7807, al Museo Reale dell'Armata e della Storia Militare belga, al Parco del Cinquantenario. La tariffa è veramente modica, 2 euro con un pacchetto famiglia, 30 euro ma con l'acquisto appunto del set da gioco, il sabato e la domenica dalle 9 alle 17 fino al 25 aprile 2015. Ora cambiamo genere di eventi e parliamo di eventi un po' più ludici, come la promenade al Bois de la Cambre, tutti i sabati e le domeniche fino a luglio, una caccia al tesoro e una mostra invece sul cervello umano, anche questa molto molto interessante, a Vaux-sur-Vaux, al Museo delle Scienze Naturali in Ruvotier 29, sempre a Bruxelles, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 17. Adesso sentiamo che cosa ha da dirci Georges Rand nell'intervista da Amsterdam e poi ci risentiamo più tardi per i saluti finali. State in linea e state in onda. Cari amici e cari amiche, benvenuti, buon anno di nuovo, anzi buon anno per la prima volta, perché è la prima volta che appaio, ritorniamo di nuovo in radio, qui a Brussellando, che quest'anno comincia con una verve diversa, infatti è in tournée Brussellando, in questo momento si trova ad Amsterdam, a vedere la produzione di una nuova opera teatrale all'Opera National Ballet di Amsterdam e, udite udite, sono qui con uno dei personaggi fondamentali del cast di questa opera, e dell'assistente alla regia. Dunque, l'opera è un'opera, non sbaglio, rossiniana, ma adesso me la farò raccontare direttamente all'assistente alla regia. L'assistente alla regia è qui vicino a me, si chiama Andrea, giusto? Bernard. Sì. Bernard, perfetto, Andrea Bernard, stavo per dire Bernardo, ma mi stavo sbagliando. Andrea Bernard, che è giovanissimo, voi non potete vederlo, però vi assicuro che è giovanissimo ed è estremamente in gamba. Infatti è qui una produzione che adesso ci racconterà un po'. Innanzitutto, di che opera si tratta? Beh, l'opera è un'opera forse ai più sconosciuta, perché è Joe Reims di Rossini, che è stata messa in scena perché è un'opera complicata, necessita di 17 solisti, però un coro abbastanza fornito. Il problema però ovviamente sono i solisti, che trovare 17 all'altezza è sempre molto complicato. Cosa che invece qua non lo è stata, infatti eccoci qua a cercare di dare vita a questa bellissima opera, una delle ultime di Rossini, tra le ultime, non è stata l'ultima, e cercheremo di mettere in scena al meglio, ecco. Ah, sicuramente, io ho visto, magari amici, ho visto già un pezzo, anzi un bel po' dell'opera, diciamo, la prima, anche la seconda parte, anzi no, forse l'ho vista, forse tutta. L'ho vista tutta con qualche pezzo, quindi siamo ancora, la prima, ve lo ricordo, sarà il 20 gennaio qui ad Amsterdam, e la cosa interessante è che sto vedendo, ho la fortuna di riuscire a vedere come si costruisce un'opera. Io sono già arrivato a un buon punto, l'opera, insomma, già messa in piedi, tutto c'è già stato installato, ma ci sono, ecco, i dettagli, i famosi dettagli dove uno si perde e dove uno comincia a credere che il diavolo esista, perché si nasconde sempre nei dettagli. E quindi la domanda è questa, cominciamo per ordine. E innanzitutto, come arriva Andrea Bernard a questa produzione? Ma arrivo un po' No, non dico casualmente, perché è stata mia volontà riuscire a lavorare a questa produzione, soprattutto con il regista, con Damiano Micheletto, che seguo da sempre e col quale mi sarebbe sempre piaciuto lavorare, e ho avuto l'opportunità adesso con il Viaggio Rems di assistere. La tua prima assistenza alla regia con Damiano? Con Damiano, sì, perché prima ho seguito altri registi, ho lavorato per molti anni con altri registi italiani e non, e adesso finalmente un sogno che sia vera. Un sogno che sia vera. Beh, com'è lavorare con questo regista, che mi dicono che sia molto acclamato, insomma, molto in voga in questo periodo? E si capisce perché lavora davvero, davvero bene. È una bomba di idee, il bello di assistere è proprio di riuscire a cogliere e dare anche un ordine e una spiegazione a tutte quelle che sono le sue idee, e che ogni volta lasciano senza parole, e quindi riuscire a captare tutte quelle che sono questi vortici di fantasia che poi mettono in scena e danno voce a queste produzioni, una più bella dell'altra. Una delle cose strane e che rende difficile il Viaggio a Renzo, oltre al fatto che ci sono, come hai detto, 17 solisti e un coro nutrito, è anche il fatto che pare che non ci sia una vera storia dietro. Di solito uno comincia, narra una vera storia. Nel Viaggio a Reims sembra che Rossini si sia liberato, ha detto, beh, forse una storia, proprio una vera trama, non è necessaria. Mi sbaglio? No, anche perché credo che avendo 17 solisti doveva accontentarli un po' tutti, quindi bisognava dare un'aria, un duetto un po' a tutti quanti, perché sicuramente avrà avuto grandissimi solisti anche lui, e quindi dovendo accontentarli tutti la drammaturgia passa in secondo piano, e allora diventava più importante l'aria o il duetto, e allora ecco che la storia si perde un pochino, cosa che invece è stato Damiano molto, molto capace di mettere insieme e dare una lettura univoca a una storia che di partenza è forse un po' debole, anche se poi il suo motivo ce l'ha, il suo finale ce l'ha, e quindi... Allora, senza voler svelare qual è, perché non possiamo svelare prima della prima, anche se questa è un'intervista prima della prima, non possiamo svelare quali sono le idee, Damiano, come le ha messe in piedi e qual è il filo conduttore. Volevo chiederti, hai già visto qualche altra realizzazione del Viaggio di Reims? Avevo visto una registrazione del viaggio fatto da Ronconi alla Scala, sia la vecchia produzione, quella poi nuova rifatta qualche anno fa, e poi qualche spezzone di qualche piccola produzione. Ce ne sono molto poche, proprio per questo non ho visto molto. Allora, qualcosa a Pesaro viene fatto ogni anno con i giovani, e poi nessun'altra, ecco, tanto che poi è stata una sorpresa venire qui e scoprire una lettura completamente diversa da quella che è. Ecco, questo deve arrivare, cioè qui c'è una lettura completamente diversa. Completamente diversa, perché dovrebbe essere rappresentata all'interno del Giglio d'Oro, che è un hotel dove tutti questi personaggi importanti si ritrovano per andare il giorno dopo all'incoronazione di Carlo X. Si ritrovano a Reims, si ritrovano in questo albergo, dove però non possono partire per Reims, perché le carrozze non ci sono più cavalli, le carrozze si sono sfasciate, quindi non hanno più vestiti, non sanno più come andare. Ecco allora che tutta l'avventura all'interno dell'albergo gestito da Madama Cortese, e dove loro si incontrano e raccontano un po' le loro storie, cominciano ad avere i loro incontri amorosi, ci sono anche qualche diatriba giustamente tra gli uomini, tra corteggiatori, poi ci sono le prime donne, quindi la necessità la volontà di corteggiarle, chi è più forte, chi è più bello, ecco, questo è interessante. Quindi c'è questo lo dico io che l'ho visto, non è un hotel. Questo lo posso dire, non è un hotel, e qui mi fermo perché non voglio anticipare troppo. Però volevo fare un così chiedere un tuo commento sulla lettura. Nelle opere di Damiano, le ultime che ha fatto, ma credo che sia proprio un suo filo conduttore, quello di una rilettura praticamente moderna, o comunque ai giorni nostri, delle opere, ma anche una rilettura fantastica, nel senso una rilettura inaspettata. Uno dice, ah, ecco. Spesso viene da dire, ah, ecco, sì, questa può funzionare, questa lettura non me l'aspettavo, però funziona, è anche il caso di questa volta. È questo proprio quello che anche mi affascina molto di Damiano, e che è qua riuscito a fare benissimo, proprio perché dall'inizio alla fine si rimane incollati alla poltrona ad aspettare, ma dove vogliono arrivare, nel senso dove si vuole arrivare, perché stanno facendo e siamo in questa situazione, in questo luogo particolare che appunto non svegliamo, però alla fine è il perché si svela in maniera molto poetica, in maniera molto devo dire da lasciare a bocca aperta. E quindi sarà una sorpresa sicuramente per tutti, e ne sono convinto 100%. Adesso dovrebbe chiedere al regista, al mio Micheletto, che però è scappato, qui non c'è e non concede interviste, ma prima o poi gliela strapperemo, anche perché mi pare che venga in Belgio proprio ad agosto e venga a fare l'Elisir d'Amore in Belgio ad agosto, quindi credo che in quell'occasione cercheremo di coinvolgere Damiano Micheletto, ma coinvolgere anche il suo entourage, che è Paolo Fantino, scenografo, Alessandro Carletti per le luci, non so se ci sarà Carla Tetti per i costumi, ma insomma cercheremo di intervistarlo uno alla volta per darvi una panoramica totale. Ovviamente siamo, non so se siamo i primi, forse sì, a fare interviste, siamo sicuramente i primi a fare un'intervista a Andrea Bernard, quindi questo nome vi dovete ricordare, perché fra un po' comincerete a sentirlo molto e molto più spesso. Tocchiamo ferro, io da qui mi pare di capire così, di solito non mi sbaglio, però sai, tocchiamo ferro e sì, è corretto. Tocchiamo ferro, che è sempre cosa buona. Faccio una domanda. Il finale è un finale veramente sorprendente, devo dirlo. È talmente sorprendente che mi pare che tutta la costruzione dell'opera sia partita proprio dall'idea finale. Esattamente, sto quello che appunto è per quello che si aspetta tutta l'opera, per capire dove vuole arrivare col finale. Questa grande scena di gruppo, cosa possiamo dirlo? Sì, la scena di gruppo, insomma, nelle opere. A volte il finale il solista muore da solo, abbandonato. No, qua invece no, una grande scena corale. D'effetto, appunto, contribuiscono a questo anche le luci, le scene, i costumi, quindi è tutto l'insieme che poi farà la grande scena. E dalla quale poi Damiano è partito per tutto il tutta l'idea e tutta la storia. E allora, volevo chiedere adesso, che cosa fa l'assistente di regia? L'assistente alla regia mette un filtro tra il regista e i cantanti? Possiamo dire, perché è sempre complicato da spiegare, perché oltre al fatto di dover segnare tutto quanto sullo spartito per avere tutto segnato, perché poi il regista è sempre là che, avendo mille cose in testa, ovviamente vuole sapere esattamente quando ci sono dei momenti di, quando sono i vari momenti, quando succedono le cose, quando i movimenti dei personaggi, i movimenti tecnici, quindi le luci, quindi tutto quanto è segnato. Però poi il compito, anche quello interessante, è essere la spalla del regista, e quindi magari fare da filtro e vedere magari da fuori una sua idea, magari cercare di renderla ancora più pulita oppure più chiara, proprio perché l'idea, partendo dalla testa del regista, poi deve essere rappresentata dai cantanti, i quali a volte magari fanno fatica a comprenderla, allora poi l'assistente in momenti di pausa così cerca di spiegare cosa il regista vuole di come cambiamenti, come spostamenti. Non sono stato molto chiaro, devo dire, perché è difficile da spiegare. No, capisco che è difficile da spiegare, perché altro perché è complesso ed è pieno di compiti, in realtà non è uno solo, è star seduto. In realtà la seduta regia, nel fare da tramite, deve capire al volo innanzitutto le idee del regista. Dobbiamo fare così, l'assistente... Non è questo! Allora, quello diventa quello di capire esattamente quando, e quindi avere una sveltezza, Quindi deve stare fra me e però capire anche... Capire le necessità poi dei cantanti, perché lo... Possiamo dire anche paturni, si può... Le paturni, altro anche, che... Anche le paturni dei cantanti. Siamo buoni, le paturni. Siamo buoni, le paturni dei cantanti, per essere diplomatici. E quindi è quello che fa da tramite, il regista vorrebbe una cosa, il cantante non la vuole, no? Quindi trovare il compromesso, aggiustare tutte e due per trovare... Anche se devo dire che qua Damiano è molto amato da tutti quanti i cantanti, quindi non ci sono stati problemi di comunicazione, questo non... assolutamente, non quindi c'è. Questo è stato molto bello. Anche. Si pare che questa sia, si dice nei corridoi che questa sia insomma una nella sua fama ci sia anche questo, il fatto che ha un rapporto diretto con i cantanti, insomma... ovviamente ci sono le eccezioni, ma generalmente apre tutta la sua anima, tutto se stesso lo dà ai cantanti per arrivare proprio appunto avendo tante idee, tutte molto, molto vive, molto, molto diverse, darle fino in fondo e quindi trasmetterle nel pieno della sua fantasia. Beh, voi sentite un grande entusiasmo e vi assicuro che gli occhi di Andrea brillano nel momento in cui parla di questa cosa. E l'hai già detto, però forse vorrei chiederti tre cose che rendono Damiano diverso, insomma, visto che ne stiamo parlando rispetto, non so, ad altri registi, ad altre produzioni, ecco, quale, piuttosto di parlare di registi di produzione, la differenza fra questa produzione e un'altra produzione che hai fatto, come tipologia di approccio, cioè hai tre aggettivi, direi. Con tre aggettivi è molto difficile, però posso dire aggettivi, allora potrei dire prima cosa vera. Mm-hmm. È una produzione vera proprio perché racconta di noi stessi veramente in maniera contemporanea, in maniera vera. Poi è proprio questo non è un aggettivo, però è la fantasia. Mm-hmm. Quindi secondo me lo spettatore e noi stessi che ci lavoriamo siamo sempre colpiti dalla fantasia che c'è nell'esporre concetti anche poi molto, molto, molto intimi, privati o comunque molto, molto intensi, attraverso una fantasia che ti porta in un mondo completamente diverso. E questo è il bello. Racconta storie, storie una diversa dall'altra, ovviamente, essendo produzioni diverse, però ogni volta lascia quella sospensione, quei momenti dove si rimane sospesi, ecco, questo è proprio il bello. E poi la sorpresa, è sempre capace di non annoiare, di dare sempre quel motivo di attenzione. Quindi verità, fantasia e sorpresa sono questi, non sono tre aggettivi, tre sostantivi, va benissimo, perché i sostantivi insomma sono come il titolo di un libro, ecco, questi sono i titoli dei libri, immaginate quello che c'è dietro a queste tre parole, questi tre sostantivi, verità, fantasia e sorpresa. E poi prima avrei adesso, ma il tempo in radio lo sapete è tiranno, credo che Andrea abbia da fare perché qui si lavora fino a tardi, stasera si tirerà per le lunghe, e io ho rubato proprio il tempo ad Andrea, me ne scuso fin d'ora per aver rubato il tempo. E come si diventa assistente regia? Che percorso bisogna fare? Innanzitutto bisogna amare il teatro fino a, proprio alle viscere, perché è un lavoro molto complicato, perché si è sempre in giro, non si è mai fermi in un punto, si vive veramente con la valigia in mano. E poi con il continuo lavoro, il continuo, la continua la continua ricerca di... Anche questa domanda è un po' complicata. Lo so, le domande sono sempre... Sì, faccio le domande complicate, me lo dicono in tanti, sì. Faccio domande complicate. No, perché sono molto generale, come studente scrittoreggia. Perché uno dice, no, lo so, prima ho fatto... La volontà di imparare, dai migliori, ecco, questo è quello che mi ha portato a fare l'assistente. Ecco, siamo arrivati. Ecco, è la volontà di imparare da quello che davvero sento anche molto vicino a un mio stile, a un mio modo di pensare, anche quello mi sono trovato molto con Damiano, devo dirlo, per lui non so, ma io mi sono dato molto perché ho visto che lo capivo molto velocemente e questo mi è piaciuto, è proprio questo che mi affascina di questo lavoro e che quindi sono sempre là. Beh, prima che cosa hai fatto per arrivare a essere assistente? Non so, si fa dei corsi, prima dei corsi di teatro, non ho fatto accademia, perché ho fatto l'università, però architettura, quindi un'altra cosa, però contemporaneamente faccio teatro da quando ho 10 anni, quindi sono da sempre sul palcoscenico. E ho iniziato come attore, poi mi sono passato già alla regia di cose più piccole nella mia città e da là mi sono innamorato di questo lavoro e per fortuna a livello professionistico sono riuscito dal primo anno di università a continuare, quindi a cominciare a fare produzioni dal primo anno e quindi è così che non sono più uscito dal meccanismo, non ho fatto accademie, però sempre corsi, quindi quello sì. Beh, insomma, è una cosa interessante, questo vuol dire che la passione insomma è abbastanza importante, per non dire fondamentale, dato che uno si prepara con un obiettivo, poi va a fare qualcos'altro, tu sei preparato in genere architettura, hai avuto però la passione che ti ha spinto e ti ha portato fino a qua, quindi... È la passione che hai speso durante tutti questi anni, quindi qualcuno ti ha scoperto. E infatti questa domanda, che è la prossima, la penultima, poi ci sarà l'ultima domanda, ma la penultima è, quindi come hai conosciuto Damiano, come vi siete conosciuti, come è nata questo rapporto di collaborazione? Avevo visto alla Fenice il Romeo e Giulietta, sì, che aveva fatto qualche anno fa, per poi seguirlo con altre produzioni come la trilogia Mozart a Ponte, sempre lì alla Fenice, la quale mi è piaciuta tantissimo. Ecco, allora io già lavoravo nell'ambiente, allora lì ho cominciato ad interessarmi e a cercare di vedere come poter riuscire ad avvicinarlo. Ecco che poi ho avuto la possibilità di incontrarlo e di chiedergli appunto se... Hai detto, Posso presentarmi? No, mi sono presentato e poi l'ho seguito per una settimana alla Scala con Ballo e Maschera, poi dovevo lavorare da un'altra parte, quindi sono dovuto andare. E poi eccomi qua, c'è stata questa opportunità e... Colta al volo e via. Contento. Allora, l'ultima domanda. Cosa c'è? Cosa bolle in pentola nel futuro di Andrea Berna? Se già c'è qualcosa che... non so adesso, bisogna... Allora... È tutto aperto. Ecco. E questo è il bello anche. Questo significa che ci sono delle cose che ha già... Ci sono delle cose che ha già in mente, ma ovviamente nel mondo dello spettacolo non si dice mai niente finché le cose non sono reali, cioè quando non le può toccare. Quindi, esattamente. Mi fa piacere che ci siano delle cose. Cose bollono in pentola. Ci sono delle cose che bollono in pentola, ma siamo scaramantici, non anticipiamo niente. Esattamente. Quindi non c'è niente di scritto ancora tangibile, ma molte cose sono lì che viaggiano e potrebbero essere tangibili a presto. Non sappiamo quali sono, quindi non abbiamo infastidito la dea della fortuna. Ecco. Che è cieca, ma non l'abbiamo nominato, non ho detto che cosa, quindi non si può concentrare.